bruciano bandiere di stati imperialisti, cadono imperi in fuochi d'artificio, bombe yakka bombe, intelligence fallita, nube atomica, batterio distruggerà vita, non avrai paura della democrazia, democrazia, democrazia. Mondo decadente, guerra propellente, informa il solito, odio razziale, controlli armi atomiche, trattato antibellica, scritta da chi di armi sopravvive, controllo del globo, concinghia e olio di glicina, concinghia e olio di glicina, concinghia e olio di glicina, combatti, combatti contro mille fantasmi, per vincere le guerre occorre gettare gas.